La famiglia Riva, proprietaria dell'Ilva, nel 2006 ha finanziato con 98.000 euro credo, la campagna elettorale di Bersani. Secondo lei questo potrebbe essere fonte di imbarazzo? È uno strumento che lei potrebbe utilizzare nei confronti di Bersani, oppure è un qualcosa del passato che non c'entra? Guardi, io sono una persona seria, mai ho messo in dubbio la correttezza di Pierluigi Bersani. Mi sarebbe piaciuto che non avessero fatto le polemiche che hanno fatto su di me, sulle cene con i finanzieri, sugli attacchi personali che ho ricevuto in questa campagna elettorale. Siccome so che come si sta quando si soffre, essendo persone serie, attaccati in modo ingiusto e indiscriminato, io dico che mai mi permetterò di utilizzare i metodi che loro hanno utilizzato con me. Il fatto che la famiglia Riva abbia finanziato Forza Italia da un lato e Bersani dall'altro, per quello che mi riguarda, non rileva ai fini della polemica politica. Che li abbiano finanziati o no, io dico che sull'Ilva la classe politica ha fatto la peggiore figura di questi anni. Dopodiché io, con molta serenità e libertà, credo che Pierluigi Bersani sia una persona per bene e, a differenza di quello che hanno fatto alcuni suoi sostenitori, mai mi permetterò di attaccarlo su queste storie. Perché adesso, a 3 giorni dal ballottaggio, volete dire vadano a votare tutti? Cioè, si cambiano a 3 giorni le regole? Guardi, noi non abbiamo mai concorso a scrivere le regole e, se le può essere utile, io non ho mai detto che non avrei partecipato alle primarie sulla base delle regole, anzi ho detto una frase che i miei amici sostenitori continuano a contestare, perché ho detto io mi fido di Bersani e le regole saranno, perché Bersani aveva sempre detto che le regole sarebbero state regole di apertura, ricorda quando diceva saranno regole per la partecipazione, tutti i dirigenti del PD dicono che bella la partecipazione. Dopodiché queste regole hanno ristretto al massimo la partecipazione e secondo me sono regole in alcuni casi fanno un pochino, via, diciamo, non facciamo gli edulcorati, che sono regole ridicole. Quando c'è il responsabile organizzativo che dice che per andare a votare al secondo turno chi non ce la deve portare la giustificazione, io non so se loro si rendono conto che hanno superato il muro del suono del ridicolo. Non lo so se se ne rendono conto. La giustificazione la deve portare chi in questi anni è stato al governo e non ha fatto niente per risolvere i problemi degli italiani, non chi non è andato a votare.